nessuno, sì. Ehi, non c'era nessuno. Ciao già. Ebbene, allora, stai in casa, sì. No, sono uscito, poi entrato. Ehi, ho fatto un DX con l'indici. Chiaro chiaro riguardo il banda laterale sui canali alti. Sta fungendo allora questa antenna. Caspita, e pensare che è uno schifo di Ringo. Pensa se fosse una Mantova 5 o una Mantova Turbo. Vabbè, senza ombra di dubbio è migliore. Ma tu ti devi accontentare, se non le vuoi mettere sei tu che sei particolare. Un altro ci avrebbe messo direttamente un'antenna buona, con un bel palo e tutto quanto, e via. Tiranti, quello che ci vuole, ci mette. Se tu particolare, che non vuoi quello, non vuoi l'altro, allora ti devi accontentare. Sì, ah, io mi accontento, a me basta uscire chiaro di radio. Con 20 watt ci ho parlato, arrivava 5,9 e io penso uguale, 20 watt in SSB. E non era nemmeno fortissima la propagazione, perché quando è forte arriva anche 9 più 10, 9 più 20. Quando è forte arrivano anche 9 più 30, qua, te lo assicuro. A casa anche 9 più 30 mi sono arrivati dalla Spagna, eccetera, eccetera. Ma quest'anno, come il tempo e la propagazione, non è che sia... Sì, ho parlato con qualcuno all'inizio della primavera e poi Ma tu lo chiami in banda laterale o in AM? Io l'ho fatto sia in AM che in banda laterale. Eia, io ho chiamato, ho provato a dire, aspetta, ho detto, attenzione alla frequenza, se copiate la divisione è 165. Cambio. Si dice... Vabbè, ognuno dice quello che vuole, ma io la faccio diversamente la chiamata. Se chiamo la Francia la faccio in francese, se con l'Italia la faccio in italiano, con la Spagna la faccio in spagnolo, però in italiano dico attenzione alla frequenza, l'isola della Sardegna, città di Sassari, fa chiamate, si sintonizza in ascolto, break. Per gli stranieri magari non mi interessava, perché poi con le divisioni non solo dove siano nemmeno, arriva un po' di tutto. L'italiano mi interessa per adesso, poi si vedrà. Ma in banda laterale mi pare sul canale 16, c'è il canale dove si trovano tutte le nazioni e poi si spostano, ci danno la frequenza e si spostano. Eia, infatti questo italiano mi pare ha chiamato 27555, poi si è spostato tipo 690 o una cosa del genere, io l'ho seguito e ho provato a chiamare dopo che lui ha finito con gli altri, però per evitare di sovramodulare, capito? Ho capito, cioè è bello anche fare DX, anche se la banda cittadina non le può fare. Vabbè, non ne potrebbe, da, ma noi... Non ne potrebbe fare, ma è come quello che dici, la ragotta non la devi pescare, a fare lui ti trova la ragotta da fare, butta in mano. Prego, su 10. Avanti, Sandro, buonasera. Ciao Gianni, buonasera anche a te, dai. Ma chi è questo piccolino in mezzo al corrente? Gianni Chiaramonti? No, negativo. Questo piccolino in mezzo al corrente è Marco Condo. Ah, ho capito, no, mi sono confuso, no, perché a parte Marco Condo ero un po' coppe, dai. E io dico, Remme è alto, è alto, molto alto. E vabbè, organizzati, come si chiama, Marco. Ma in che senso, con lineari? beve di più. Ma da quale zona stiamo trovando? Cappuccini. C'hai una Ringo, Marco? Cappa. Ha una Ringo. Ah, ho capito, vai. Non vuol dire, magari dipende anche dalla posizione, tante cose, vai. A me Marco Condor, alle prime curve di Monterraggio mi arrivava Santiago 9 Radio 5, perfetto. Riesce a quello, perché io lo sentivo molto bene a Monterraggio, anche se il punto è alto lo sentivo abbastanza bene. Cappa, dove l'amico Fordo Torres? Cappa, eia, ma sta pompando. Ah, lui chiede, non lo so io. Attento l'amico, mi ascolti, ma stai, sei attaccato di Bat? Salve, è copiato Marco? No, negativo, già. Certo, con quanti Bat stai uscendo? Quanti Bat? Sono i Bat che ho parlato. Ha detto che hai Bat dell'apparato. Adesso se l'ha fatto ne ha 200. Ecco di nuovo i disturbi. No, c'è brutto tempo, è nuvoloso, e prendi già. Io perché non sono scappato al costruttore, sono andato a pescare, si stava mangiando, non ti lasciava le canne in pace, andava a controllare di una e ti mangiava dall'altra. Stava mangiando a profusione, solo che dopo ha piovuto, non la mare, si riesce a divertirsi. Evidentemente diciamo era un po' agitato, un po' mosso, e magari era anche giornata buona. No, ma è sottento, cavolo, non riesce più a stabilizzarsi a partire l'estate come deve essere. E allora, un bel sarago già l'ho preso, 550 grammi, l'ho pesato a casa, 550 grammi, è bello, una dirada che faceva, pensavo fosse qualche oratta io, e invece c'erano i saraghi, quelli pizzuti, che era da un po' di tempo che non ne vedevo, quelli belli grossi. Ah, buono, ma sempre là al solito punto? Ehi, stiamo lanciando verso il largo, più verso fuori. Ho capito, dai. Evidentemente hai trovato la giornata giusta. Va bene, dai, mi dispiace lì per Marco, ma purtroppo... Mitici. Ciao Grodino. Come siete in FM? Perché si sente meglio. Meno male, chi c'era? Sandro Tiger. E io. Teacher. Teacher. E io lo saluto, ciao Sandro, ciao Gianni. Ascoltate, non è che avete sentito Roberto Quadratto? Negativo. Attivo anche per me. Ciao Marco, fondo scala per te. Ogni tanto ne azzecca una, ma ne zonku. Come sei crudele. Ma ne zonku. Ho capito, mani di zonku. No, mani di zonku, devo dire la verità, a volte. Pomponi, ma è fortuna, è solo fortuna. Oh Gianni, dimmi com'è la radio qua in FM? questa è bella, è molto più aperta la M, ma è bella anche qua, va bene anche qua. E allora, Grodino, che fine hai fatto? Nessuna fine, purtroppo, per chi mi vuole male. Poi volevo chiedere una cosa a Sandro, ma era una cosa nostra, da cuore a cuore. Ah, allora se cuore a cuore ce la teniamo? No, ti chiedo una cosa veloce e indolore. Secondo te la valutazione di una seconda mano di un Ichnusa Balilla, cosa può essere? Di un Ichnusa Balilla? Di che cosa stiamo parlando? Balilla, un calcio Balilla, Ichnusa seconda mano, cosa può costare orientativamente? Ma bisogna vedere lo stato in cui si trova, capito? Se è presentabile siamo intorno alle 300, se poi è scadente, ci sono lavori da fare, 150, 200 massimo, ma proprio stracciate. No, altri rientranti, condizioni buone, l'unica cosa è gettoniera, gettone, 350. Hola Italia, la Germania. Ok, un attimo Germania. No, te l'ho detto, io c'ho sempre quello là che sta aspettando che tu ti decidi, boh. E poi allora ti faccio uno stile e mi dici. Achtung, friend Germany. Ja, ein schönen guten Abend. Of Germany. Guten Morgen, my friends. In this moment, no good signal for you. Please, your name of the station, my friend. Yes, your signal here in Germany is 7-9 and a very good radio 5. Thank you. And your radio is 5 and your signal is 9-20. No problem for understand. Please, repeat the name of your station, my friend. My station name is the 13 Alpha Radio 010. The 13 Alpha Radio 010. My name is Perno, like Bravo, Echo, Romeo, November, Oscar. Perno, confirma? Should I repeat once again? Please, repeat one more your name. My name is Anthony, Anthony. I'm from Sassari to Sardinia Island to Mediterranean Sea, do you understand? Romeo, November, Oscar. Bravo, Echo, Romeo, November, Oscar. Perno. Okay, no problem. My name is Anthony to Sardinia Island to Mediterranean Sea. The city is Sassari. Do you understand? Attention, my friends. Motion. Saluto il gruppo. Stazione. Ciao signori, statemi bene, buon proseguo alle prossimine. QRT da parte mia, dai. Ciao Sandri, ci sentiamo attraverso il basso, dai, ti faccio e mi fai sapere. Non mi ricordo la cosa, comunque ti faccio uno squillo. Alle prossime, avanti Marco. Ciao Sandro, ciao, ci sentiamo, buonasera. Ok, Mr. Anthony, once again. Ok, my friend, in this moment your signal is very high performance for you. It's 9 and 9 alpha and your radio is 5. Please, repeat your name. My name of station is Anthony, Anthony Station, to Sassari, to Sardinia Island, to Mediterranean Sea. My name here is Berno, like Bravo, Echo, Romeo, November, Oscar. I just changed the radios and I think the signal is now better at yours. Okay, my friend, no problem to understand. In this moment, a good signal for you. Gianni Doppio Room, Gianni Double Room, and my friend Marco Condor. Gianni Doppio Room for you. Avanti, Gianni. No, non parlo, non ci parlo da te. Avanti, Marco Condor. Oh, non è che arrivi bene come gli altri, sentivo gente molto molto più forte. Attention Germany. Yes, I'm still hearing you. Io posso dire sono Achtung, Telefunk, Volkswagen e cosa ti posso dire? Ok, my friend, sorry, but in this moment QSO, local QSO, and my friend no speak English and no speak Deutschland, sorry. No problem, please, many greetings to your friend and locals. Okay, in this moment the company is Gianni Doppio Room and Marco Condor, and my name is Grotte. Okay, break. This is the QSO, and many greetings to you and your family and your friends. And thank you for the night about what QSO. Thank you very much, my friends. Are you and 73? Are you and your family? Please repeat one more the name of your city. The name of the city Geneva. Geneva. Thank you very much, my friend. Thank you at another time. Bye-bye, my friend. Okay, cool. Is it Roger? Thank you. Yes, my city is Sassari to Sardinia Island to Mediterranean Sea. Thank you very much, my friends. Bye-bye. Vedi se mi ascolta. Vedi se mi ascolta. One moment, my friend. You listen to my friend Gianni of your room. Avanti, Gianni. Volevo sapere solo se mi ascolta il segnale. Basta, capito? Volevo sapere se sei di segnale o in Germania. Ok, attenzione. Io parlavo in italiano, io sono 5 divisione Svizzera, operatore Michele. Ciao Michele, mi hai sentito da questa parte Antonio, stazione Grotte, the Fox, Sardinia Fox. In compagnia con me c'è Gianni Doppio Room che ti manda avanti. Avanti Gianni per... per l'amico. Io stazione Giambo della Svizzera, operatore Michele. Ok Giambo, operatore Michele, no problem. Ti sto sentendo abbastanza bene. Hai un segnale 920 Radio 5, ti manda avanti l'amico Gianni. Avanti Gianni per Michele. Chi è entrato? Perché stavo parlando qua e non ho capito. Buonasera, chi è entrato? Michele. Da dove? Michele, da dove stai chiamando, mi hai detto? Pronto, sto tanto. Il momento più coerente e noi ti ascolti. È un bel basso lo stesso. Cambio, tu modulazione 4, segnale 5-6, questione Gianni, cambio. Ok Michele Giambo, non problema per ascoltarti, no problem, tu understand. Però Gianni ti sente molto basso, quindi non so se l'hai copiato, si chiama Michele Giambo, Gianni, credo che stia trasmettendo dalla Svizzera. Mi confermi Michele? Sì, dalla Svizzera, QTH Losanna. Più che basso di sobba. Mia potenza a 5 watt, in 5 watt, altitudo 850 metri, ok? E il mio apparato President Madison. Quattro radiale di 2,75 metri. Ok Michele, non c'è problema, l'unica cosa è che il segnale è un po' disturbato. Ho capito quasi tutto il tuo passaggio, però c'è molto QRM in questo momento perché forse si sta chiudendo la propagazione. Comunque io ti ringrazio per questo collegamento, per questo QSO 7351, a te e alla tua famiglia, e ci sentiamo alle prossime. Ti rimando Gianni per vedere un attimino se riesci a sentirlo. Avanti Gianni per Michele Giambo, Ginevra. K, ciao Michele, vi ho sentito anche a te, 7351, l'operatore Gianni W della città di Sassari che ti supercordializza. Vorrei sapere se arrivo lì a Ginevra, vediamo un po' come ti arrivo, perché tu mi hai appena disturbato e a volte quando ci sono disturbi di QRM ti ascolto bene. Tutti i fattori dell'Europa e la giornata molto coerente. Okay. E io ti starò da soltanto. Sto parlando sta perché c'è di subito quello non c'è. Grazie Michele, ti saluto a tutta la ruota qua di Sassari della 27, a risentirci alla prossima. 7351 alle prossime, dai. Ti saluto anche Gianni. Sì, stavo parlando, non c'è problema. Sì, ma qua c'è la QRM, non lo sentivo molto bene adesso. Ma mi ha sentito? Sì, affermativo, ti stava sentendo, eri tu che avevi un po' di disturbi, evidentemente c'è qualche problema, non tu, ma qualche problema di QRM e elettromagnetismo vicino. Sentito, hai detto che ha solo 5 watt, così è. E via. E tu Marco, parlato c'hai? Ma io no, c'ho disturbi. E arriva con 5 watt, quindi. Tappa. Come? È la propagazione così. Se c'è propagazione arrivi con 5 watt, non c'è problema. La propagazione è purtroppo una delle cose più misteriose di questo mondo, nel senso che riesce a parlare con persone come questo qua che parlava dall'Austria, quindi da Ginevra, e magari non riesce a parlare con persone che stanno a 100 km, come possono essere persone che stanno a Nuoro, come stanno a Oristano, perché si crea un canale che ti permette appunto di far imbalzare il segnale fra il mare, una parte dell'atmosfera e quindi fa sì che il segnale con pochi watt riesca a propagarsi anche a distanza di centinaia di chilometri. Ecco. Tu ti volevo chiedere, visto che tu hai preso la patente, in propagazione c'è lo skip lungo, no? Proprio per parlare con i paesi fuori Europa, il medio e il corto. Quanto può essere corto? C'è lo skip corto, minimo, quanto può essere lungo, tra virgolette? Sì, ma credo che non ci siano, a seconda delle condizioni cambia. Aspetta un attimino, c'era qualcuno che stava breccando, avanti il break. Io lo sto sentendo. Ha breccato qualcuno. Attention my friend. Tu non hai disturbo. Sì, aspetta un attimino. Secure DX to Sassari, Secure DX. Sorry my friend, in this moment no good signal for you, please repeat one more. Stavo dicendo Marco, cambia a seconda sicuramente delle condizioni meteorologiche, capito? Per assurdo, quando ci sono le nuvole così e c'è un tempo incerto, la propagazione si apre molto di più. Comunque è un dilemma, è una cosa molto particolare. Da un momento all'altro proprio cambia e puoi sentire paesi che stanno a distanza di centinaia di chilometri, per cui magari non sentire la persona che hai a fianco, capito? Io ho parlato della Turchia l'altro giorno. Capito, e per logica prima della Turchia dovresti riuscire a parlare con tutti quelli che ci stanno prima, e invece no, questo non avviene. Ah no, non credo che ci possa essere uno skip così corto, no? No, infatti tu mi hai chiesto qual era lo skip lungo, lo skip corto diciamo che è relativo, però diciamo che di solito è intorno ai 300-400 km. Ah, ecco, sotto un certo livello non va lo skip. Ho capito, dai, mi interessava quello. Avanti Gianni. Beh, infatti tu quando c'è propagazione non hai mai parlato con gente di Cagliari, ad esempio? No, stasera ho parlato con uno di Brindisi, arrivava chiaro. Breccale. Io lo stesso, credo. Avanti il Breccale. Il Breccale. Avanti il Breccale. Avanti. Perché mi state passando? Perché di FM ci parla meglio, stavo facendo di ex, perché tu dove sei? Ho visto questo segno di cucina, qualcuno sta facendo, come si chiama, collegamenti, infatti ce l'avete voi, perché non è prima, non riuscivo a capire che cosa c'è sotto. E tutti comunque, non ho ascoltato, ho sentito Gianni e a prima ho detto che era Marco Congo. Robè, come mi ascolti? Ho piazzato l'antenna sul tetto. Ma penso che abbasso un pochettino che sono troppo forte, se no. Ok, lo scappa qua, tutti e tre, il più forte che sia coso comunque. Secondo se tu è vicino Gianni. Chi è che sta mettendo musica? QRM. Non lo passo. Passate tranquillamente. Ma tu? Ehi, lo passo. Siamo una nuova. Affermativo, guarda un attimino, stiamo aumentando, lo passo. Sei una bomba, ma non c'è scritto un colinetta tu abiti? Dove c'è scritto? Dove c'è scritto? Colinetta? Sì, affermativo lì. Ho visto la tua antenna con una scala rossa fuori, la stavo montando ieri. Affermativo, no, la stavo portando su un attimino e stavo vedendo dove piazzarla. Ma non è una marca, ma che antenna è quella lì? Quella lì è una Sirio 2008. A proposito, visto che hai staccato adesso, capoccia che stai mettendo musica, vai e fatti una cagata che non stai sorpassando nessuno, io spegni il tutto che stai staccando corrente. Sigliere. Free to A division, Delta November 0742. Aspetta, mi sembra russo. Secure, secure the X to Italy, no problem, my friends, please, another more. Switzerland, operator 9, Michel. Sì, good evening, Michel. Operatore Robert, QSL. Allora, ti cazzo per fare un po' l'inglese, un po'... Ecco. Sì, questo parla inglese. Do you speak English, please? Sono Michel. Nice to meet you. My name is Anthony. Operatore Anthony, station, my name of Fox, Sardinia Fox, Grodde. Much qua in Mexico. Ok, l'avevo già inteso però. Vabbè, rimaniamo in questo locale. Ti devo chiedere un'informazione dal punto di vista lavorativo, mi devi fare una cortesia, mi devi, ti chiedo una cortesia. Allora, è diverso, così, cosa vuoi, dimmi. No, succede questo, siccome sto modificando delle macchine rogatrici di spazzolini, devo far modificare invece preservativi. Ho fatto una, come si dice, un caricatore che serve per appunto metterli in uno sopra l'altro, poterli da un'anima particolare far erogare. Cosa succede? Che è composto da uno scatolato che però io ho aperto adesso e devo riproporre la stessa cosa, quindi tagliare a misura l'ammirino e dopodiché però poterlo piegare in un certo modo. Cosa mi consigli di fare? Portalo a vedere, guarda, io stavo facendo una battuta, invece da vedere, anziché mettere il pezzo devi erogare dei preservativi, lo stavo facendo scherzando per ridere, invece mi hai anticipato tu. No, stavo parlando seriamente, portalo, andiamo uno sguardo, Anto, quando vuoi. Sì, guarda, io l'ho fatto con quell'ondulina, ho fatto come si dice, il prototipo con quell'ondulina verde o comunque bianca, è presente che in... se non mi ricordo come si chiama, quella cosa con cui fanno di solito le valigette che portavamo ai geometri, è presente, quelle bianche in plastica. Sì, sì, ho capito. E niente, siccome è semplice, quindi adesso lo apro ed è pari a un foglio, però va ritagliato al pari, dopodiché è piegato. Sono pieghe normalissime a 90 gradi, quindi non c'è problema. Ma non piegati, se ce l'ho in officina, se vuoi avvicinati, non è che ti sta capendo più di tanto, ti avvicini e facciamo quello che vuoi tu, quello che riesco a fare, nel senso se c'è un'attrezzatura per farlo. No, perché ti spiego, se io riuscissi a tagliarmelo già sarebbe un lavoro poi semplice, perché realmente di pieghe ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, anche di meno. Poi sarebbe un lamierino da 0,8, capito? Ero impegnato. Oh, facciamo una cosa, siccome io vi vedo tutti a fondo scala, non mi vuole faccia il baracchino, o passiamo in AM e ci abbassiamo un pochettino tutti di segnale. Per me non c'è problema, anche se basta abbassare il segnale qua e se sfruttiamo di meno l'apparato, anzi va anche meglio. Ma tu dimmi, con cosa stai uscendo adesso, Antu? E il Thunder del Fire T. Il 850. E quanto ne fanno, per curiosità? Perché attenuato sei sempre a fondo scala, non c'è modo, lo tolgo tutto l'RFG chiuso e sei sempre a 960. Guarda adesso come sto uscendo. Guarda adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, adesso sono a forse niente, 0 watt. Anto, sei sempre oltre 960, superi 960 da me. Guarda, adesso ho chiuso di più non posso chiudere. Io sono attenuato di 20 dB, ti sto ascoltando, e sei oltre 960. Ti dico che adesso ti ho attenuato e non me ne rendo conto, anche tu sei 960 fisso. E tu, con quanto stai uscendo? Io? Aspetta che controllo. 10 watt sono fissi, non li posso abbassare, questo apparato non ha la regolazione di potenza. Qui io non tocco perché c'è la regolazione ottimale e non la tocco più, da così si è giubuto l'altra. Allora siete tutti oltre 960 attenuati di 20 dB, fate l'ugonto. No, troviamo in M, non voglio far danno agli apparati. Anche in ricezione mica lo fai, Io non beccato mai, sei così fifone. Non mi fa niente. Robe, guarda che in cosa, in ricezione non gli fa niente, a meno che non ce l'abbia a fianco. Sono Crote, Antonio. E beh, Giuseppe, da non China. Sto bene, fondo scala, complimenti. A fondo scala, lo sai, no? No, volevo parlare un attimo con Marco Condor, quanto gli arrivo adesso? Marco, ci sei? Ehi, va. Sei a casa tua, arrivi bene, arrivi oltre 9.20, oltre. Comunque Giuseppe, sono andato a pescare. Già. Questo è perché è più forte tra Marco e Antonio Grodi. Pronto? Oh. Ma sto uscendo basso, nel senso che adesso sono a zero. Se ti do una girata di vite, vedi? Già l'ha compreso, lascio sempre basso. Non mi ascolti adesso. State parlando tre alla volta. Vabbè, come sono? Allora, lui adesso ho chiuso tutto l'RFG, fate conto che l'altro di 20 dB e lui è Santiago 4 e tu sei quasi 4, spingendo al minimo, figurati se ti metti a terra appena, non so se lo conosci, il 44 c'ha l'RFG che è sensibilissimo. Immaginate che adesso sono a zero, cioè non posso scendere al di sotto, sono proprio zero di potenza. Figurati quanto sta rendendo con la posizione che c'hai tu, altro. Va bene, avanti chi tocca, già nel doppio rumo facci vedere. Ho visto le tue antenne oggi già, ma è lui attaccato il tuo. Io? Doppio rumo. Io ne ho una sola. Adesso sono a 6. Figurati. Io ne ho una sola di antenna. Tu cazzo, c'è un'altra antenna attaccata a te. Sì, quella della buona anima lettore, Vittorio Lavello. calcio, ho detto che come già ne so piazzato due antenne, perché loro da una parte della nostra del campo di calcio, l'hai visto quella strada che c'è di fronte a dove abiti tu, dove ci sono i campi di calcio, e vedevo queste due antenne, ho detto ma non ci avevo mai fatto caso, ci sono due antenne, ma sono due matto qua. No, una era via amatoriale, quella con i radialini piccoli. E io, ok. E ma già si fa vedere l'antenna tua, aveva un vento oggi, si vedeva oscillare da lontano. Non so il freddo che ho preso stasera, era vera una partita di lì, sembravamo in pieno inverno, non dico in pieno inverno, ma in pieno autunno. E non so, non vuole più cambiare. Io ieri sera sono andato a farmi due tiri vicino dove c'è la gabina tu. Sono andato a farmi due tiri, lì non mangiavo, mi sono spostato verso Porto Torres e lì ha cominciato a calare il vento, poi ha cominciato a mangiare che era una bellezza, due cani non riuscivi a regolare, andavi a guardarne una e mangiavo l'altra, infatti dovevamo essere in due, non in uno, ma comunque alla fine l'ho preso un bel sarago. E poi ha cominciato a fare lampi, tuni, ho detto, no, più voglio riafficcarmi più bene il carbone, più voglio attirare il temporale, i lampi, ho preso e me ne sono andato. Allora, a proposito del calendario del carbone, togliamo una leggenda metropolitana. Non avete usato carbonio, plastica, coso, qualunque materiale che utilizzi, anche la resina, attira il fulmine, è una cosa appunta. Ricordiamoci, perché mi dice se c'è la carne in carbonio, invece se c'è la carne in vetroresina non succede la stessa cosa, gli stessi problemi c'hai. Col carbonio ancora di più, però con qualunque cosa appunta attira il coso, perché l'albero conduttore, gli alberi, basta che abbiamo un ramo in alto, eppure il legno, c'è sempre un po' di umidità e attira il fulmine. Non c'è vero. E vabbè, comunque io c'avevo fibra di carbonio, quindi erano ancora peggio. E vabbè, ho da evitare problemi. Ho fatto il tempo in tempo, vabbè, se dormi in macchina, così se barriera da leva. Ma ho fatto il tempo in tempo a sedere. Ma acqua però. E non so la prevista. Sai quello che avevo detto? Non le cucci, non le cucci l'altra volta lo stesso. La previsione da mano acqua. Sì, ma è vero che io sono uscito col sole da casa. Già lo so, purtroppo non si è comprendendo nulla del tempo. Stamattina ha fatto una balzellata di acqua sino agli 8 metri, poi di colpo ha pulito e sembrava una bella giornata. Poi verso le 2 è iniziato di nuovo un po' a oscurirsi. E domani è peggio, mi domani è prevista acqua. Attention Norway, attention Norway, attention Norway. Italy from Sardinia. Attention Portugal, attention. Attention, che cavolo è? Attention Portugal, attention. Secure, secure, secure the X. Avanti con una carica. Secure the X, secure the X, secure the X. To Sassari, secure the X. From Portugal. Okay, my friend, go ahead. Microphone back for you. Over. Attention Michael, if you listen to me. Attention Michael. Deputy. Attention Michael from Portugal. E vabbè da. Gianni. Portugal. Se ascolti stazione Delta della città City Sassa. Al basso Gianni. Beato per me, mi hanno chiamato a mangiare, arrivo dopo, dai. Va, va, roba, ciao. Più, se chiudi esto, se chiudi, se chiudi esto. Sto stampando un attimino una cosa, ci sentiamo fra un attimo. Lucas from Portugal. Attention my friend Lucas, se ascolti l'operatore Gianni Desca Romeo della città di Sassari che ti super cordialito. Ascolti per la guardia. Ma sta rispondendo a te o sta parlando con altri? A me sta rispondendo. Cioè come me adesso si abita lui. Già, ma spero che tu in FM abbia messo un po' di squelce per eliminare il fondo, se no è fastidioso. Lo so che bisogna eliminare il QRM, ma secondo come tu lo chiudi lo squelce non senti quelli bassi, quindi non ho toccato. Attention Portugal, Portugal. Copy Italy, Italy, Sardegna. L'inferno, a me non mi sento che c'ho l'antenna nana. Attento Leoncino, sei all'ascolto. Dimmi Marcoli. Dimmi cosa mi volevi chiedere. Per quella questione ho detto, se non ci sono problemi, se non ti è arrivato, te lo do e vabbè che non c'hai quella cosa là, che mi ha detto, non c'hai quella questione là per poterlo utilizzare, tanto male che te lo do. Oh Giuseppe, io ti ho spiegato, quello è tuo, lo puoi vendere, lo puoi schiacciare. Io l'ho già ordinato, e arriva lunedì, quello è tuo, e lo userò in macchina, poi quando potrò prenderò l'alimentatore. E anche tanto me, lo devo ordinare anch'io se mi arrivano quei soldi là, Marco lì. Al limite mi dici quanto viene, e invece di ordinarne uno, ne ordini due, capito? Cioè, salvo che all'altro mese, verso il 10 o il 15, ci siano quei soldi là che mi devono dare, capito? Poi sì. Cappa Giuseppe, avanti sul 10. Avanti canale 10 che è l'ascolto. Allora, adesso l'ho chiuso tutto lo square, c'è una telefonata, era chiusa a metà, ma adesso il massimo non ne sento più, non me la fatti nuda, almeno non mi sfascia le orecchie che ho le cuffie. Lo so, con le cuffie è fastidioso. No, io l'ho alzato solo per eliminare il fondo, perché c'è Santiago 1 e mezzo di più QRM. Invece sul 9 e sul canale 8 è pulito, c'è Santiago, mezzo Santiago, dai, è disturbato, non so perché, forse c'è più propagazione qua. No, io l'ho chiuso tutto, ascolto benissimo, anche Giuseppe, mi aprite bene lo squeci, quindi tranquillamente posso parlare senza essere disturbato da nulla, proprio una telefonata. Già, va bene questo microfono come posizionato lo switch. L'ecco, dai. Sì, ma sta facendo rumore di alternata, non so cosa sia, Giuseppe. Prova a schiacciare senza parlare. Facciamo, rimetto proprio vicino. Lì di fronte ce l'ho, all'altra parte del banchino. Se te è una radio alternata, e vabbè, comunque già va bene, comunque l'amplificazione è giusta, Giuseppe. Ah, no, perché se glielo sollevo un po' così, leggo, guarda, ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. No, abbassa per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Ma io lascialo così, senza ecco, va meglio. Vabbè, neanche a uno, capito, neanche a uno. Prova a fare l'amplificazione. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Già va bene. Giuseppe, fotografato l'uomo di Sarago. Che il Sarago che ho pescato te l'ho fotografato. Ho copiato, ho capito. Ha detto che il Sarago che hai preso lei ha fatto la fotografia. Ehi, a questo lo faccio vedere. Ma vabbè, non ci sono problemi. Adesso come misura andiamo, dai. Andiamo a prendere un po' di ciughitta e andiamo a ciughitta, con la ciughitta. C'è Mascate che ha pescato un mormorone, non so quel che altri pesci, tutta la ciughitta. Lo so, la ciughitta è buona, anche la lumaca va bene adesso, ho capito già, la lumaca, le lumache, lumacone. E io già lo so un po', se domani piove ci troviamo e scendiamo, già lo so io un po', se ti faccio fare a beffa con le lumache. Ma non ci sono problemi, salvo che non domani mattina, domani mattina sono impegnato già, sono lì impegnato con mio fratello perché devo andare prima alla SIAI e poi dovrei andare a Coso, a Euspin, a prendere roba, e poi giù a Coso, a qualcosa di Portobello, capito, a portare roba. La Portobello sta portando? La vuole portare lì adesso, cose che che già ha detto di portarle lì a Portobello. Tu, ne ha già l'altro, eh. E vabbè, poi diciamo che stasera mi ha telefonato quella signora e mi ha detto, dice, che 60 euro erano troppi per quel baracchino, se glielo portava a dare 40 euro, ho detto vabbè, ho detto 40 euro però riuscivo, né di meno e né di più, voglio 40 euro, perché sono un ritiro, no, non ci sono, 40 euro va bene, se vuole glielo provo e tutto quanto, glielo faccio vedere che funziona e tutto quanto, glielo attacco in macchina e mi ha detto che stasera devo andare e vederlo e lo prendere, capito? E chi lo doveva prendere? Ho trovato già l'acquirente. E mi ha telefonato lì, mi ha telefonato e mi ha detto che l'ha cercato uno che 60 euro non ce l'aveva, però lui si poteva spendere 40 euro. Ho detto vabbè, ma telefonato, ho detto vabbè, glielo do via 40 euro, ma di meno no, gli ho detto, meno di 40 no, non me lo. Giuseppe, quella roba che gli ho portato, se non la vendo due mesi, la sto prendendo e porto da Portobello, perché mi sembra sempre vuoto quel negozio, non è conosciuto da nessuno. E chi? Di Viale Dante, quello che ha aperto nuovo. Ho capito, sì, me l'avevate detto che ha aperto uno nuovo. Comunque ci voglio dare un'occhiata. Sì, riprendi Giuseppe. Tu passami per la fotografia, ne hai Marco lì? È bellino, Marco, è bellino, solo che non si fa pubblicità, non si fa quello, capito? Non è come Portobello giù a Fredanieda, che è conosciuto e lì ci va molta gente, perché lì passaggio. Lì è un posto nascosto in Viale Dante, capito? È proprio all'angolo. Però dovrebbe essere lui a fare un po' di pubblicità, a fare volantini, dare maggior servizio al negozio, capito? E poi a cercare il parcheggio e chiudi un casino, a Fredanieda vai e parcheggi subito. E fatto male a metterlo lì, che è la roba, lo devo mettere direttamente là. E mangiare la ritiro, se vedo che non le vende la ritiro. Poi già io, guarda, non lo so, adesso vediamo, io aspetto tutto questo qua. Se questa qua non vende, non mi dà garanzia che è bene, io massimo all'altro mese, se non vi do, me la ritiro e la porto giù a Portobello. E cazzo di dove? A che ora del croce? Cioè. No, perché dopo due mesi te la mette al 25% in meno. E invece là, in base al prezzo, vabbè, loro sì, vabbè, ci trattengo quello che ci tratterò, però è conosciuto e la vendono. Vabbè, dai, riprendi Marcolino. Aspetta, un attimo di ritardo prima che esca la voce, capito quando premi? Ma me stai dicendo, Marco? Scusate, il telefono, un attimo. Mi stavo dicendo che c'è ritardo, Marco. Ma è solo quella cosa là del 50% già. Sì, ma è dal 30 al 50, perché tutti i prodotti li ha messi al 50, appunto? È quello. Adesso secondo me va, e io tempo l'ho detto, se loro entro l'altro mese, massimo verso il 10, non hanno venduto niente, mi ritiro tutto quello che c'è, tanto la roba mia, quella roba gli ho portato, i quadri, la macchinetta del coso per fare il pane e tutto quanto il resto, e vado me la ritiro, dico so, non avete venduto, la porto un'altra parte che me la offro molto di più. Giuseppe, del lieve breve ritardo, ma una cosa infinitesimale. Giuseppe. K. Prova Giuseppe, non ho fatto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. No, io non ho mai all'inizio. Giuseppe avrà detto 1, 2, 3, 4, 5. Io ho sentito 3, 4, 5, 6, 7. Sì. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Hola. Allora, premi bene la portante, Giuseppe. Probabilmente non esce il primo pezzo, capito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Ma vedi che è lui che preme la portante. Eppure già, io sento la portante, vedo la portante, ma la voce esce dopo. Comunque vabbè Giuseppe, basta premere prima e poi parlare, come consiglio sempre, cioè di non parlare premendo, prima premi, poi parli. Io ho sentito pa, non ho sentito k, ho sentito pa. Buonasera. Hai ragione, c'è un po' di ritardo. Prima premi, parli. Antonio, sei rientrato? Guarda, Marcolino, pipistrello dalla notte, guarda adesso. Giuseppe, non è che me ne accorgo sempre, alle volte non le cuffie, alle volte me ne accorgo di più, alle volte no. Ora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Con questo ti è svanita la voce. Lo sai già? Detto, con questo ti è svanita la voce. Praticamente la più alta è diventata più bassa. E poi è ripreso di nuovo. Anche questo è basso. Questo microfono basso c'è. Carica più piccole cose, Giuseppe. Ho detto che praticamente prima si è uscito bene, poi si è abbassata la modulazione, nonché si è svanita, come ho detto io, e poi si è ripresa di nuovo. Bulutu che c'è a casa tua già. Stanno ridendo, deve essere. Stanno guardando il televisore e c'è qualcosa che fa ridere, C'è Colorado, hai capito già? Colorado, Italia 1. Ah, basta. Se c'è Pucci e queste cose qua, loro impazziscono per questi personaggi che a me non mi fanno vedere di brutto. Dammi se sta vedendo la cosa la mia moglie. Ehi, c'è quello. Ciao, sono Mario, ho 42 anni, soffro di amnesia. Ciao. A me non mi faccio di banduta. Sì, ho capito. Ciao, sono Mario, ho 42 anni, soffro di amnesia. Scappa. Vabbè, non molli, Giuseppe. Ah, molli, che non ci interessa Mario. Allora passo. C'è il televisore, si vede, ecco, ce l'ho senza anche l'acqua io, il televisore, c'è un altro volume. Sono in sala, quindi immaginati tu, se non lo sento. Ciao, sono Mario. Vabbè, comunque il pipistrello non lo fa più Marco adesso, da quando c'è l'antenna adesso non esce più da casa. Beh, adesso è diventato il pipistrello di giorno. Attenzione mia, non stare sempre a casa per questo baracchino. Esci ogni tanto, te lo porti in macchina, ti fai in giro. Dice non stare sempre a casa adesso, perché tra radio e computer sto sempre a casa, se no. Beh, ha ragione. Ma è un modo anche di socializzare, non è che il baracchino è un modo anche di socializzare. Ti dà un appuntamento, ti trovi, ti puoi fare una cosa, no? Sì, infatti. Era bello quando in estate uscivamo a Piazza dei Segni o quando andavamo al Parli. E vabbè, lo possiamo fare di nuovo, non c'è problema. E ma io prima mi ricordo che anni addietro tutti i cimici trovavamo lì in Piazza del Sei, giocavamo a pallone, scacciavamo, ma un bel di macchine. Negli anni d'oro. Omosessuali. Anni 75-80. Gli anni degli omosessuali. Ah, tu, a proposito, guarda che in Francia hanno approvato il matrimonio gay. Allora prepari i documenti. Ma fare carica materia, ci sentiamo fra un attimo. Ehi, Aldo, ciao, ci sentiamo. Invece per te, Marco, e le cuffie c'hai? Non le sopporto tanto, sono senza. Ma sei da solo? Sì, quasi, sono nel salone, che... Camera non ho voluto l'apparato, l'ho messo nel salone e invece mamma ci sta guardando la TV. Ah, capo, perché volevo sapere se tu sapevi cosa fa una donna a cavallo, cioè una donna che galoppa a cavallo, cosa fa? Galoppa a cavallo? No, fa il purè. Cosa fa? Il purè. Aspetta, non ho capita che... Perché si schiaccia la patata? Non ci avevo pensato. E cosa fa invece la donna sotto il cavallo? Non lo so, non lo so neanche io, però me lo immagino. Aspetta, guarda, muore schiacciata. Oh no, no, non muore schiacciata. Si attacca al manico del cavallo. Avanti, Lucino. Lucino si è scandalizzato e se n'è andato. No, sono qua, sto controllando col microfono, hai capito già? Col microfono è intercettato, quello è perché stanno male. Capite che c'è qualche filo? Non lo so, ci vediamo. Anche il PTT può essere che magari c'è qualche cosa, il granello di polvere. Magari se rimetti un po' di per contatti ti passa tutto, come ho fatto io. Come ho fatto io. Ascoltate, scusatemi un attimo, che vado a stamparmi tabelle di canali del baracchino. Copiato? Sì, io ce l'avevo però non la trovo più. E anch'io ce l'avevo già, poi è sparita quando ho fatto le pulisti. Adesso ne ho un manuale di istruzioni, un apparato, c'è la tabella canali, me la stampo. E qua frequenzimetro io non ne ho, capito? Si può comprare extra però, c'è il frequenzimetro per questo apparato. E dietro a questo apparato c'è la presa per il frequenzimetro, a 6 poli. Da. Vedi tu, Marco, magari non ti ha preso l'altro con frequenzimetro, te lo prendi più in là, frequenzimetro, cosa vuoi fare? Ma molto costa. Costa circa 50 euro più 10 di spedizione. No, ma sa che cifra. Ed è proprio il suo frequenzimetro, ha cifre blu, ha la staffa per attaccare in macchina, c'ha il cavo di collegamento ovvio e poi c'era un cavo extra per fare non so che cosa, già è bellino, è regolabile anche la luminosità in modo da non disturbare di notte. Ah, forse perché la verità con l'apparato Albrecht il 5008, quello che adesso è in riparazione, avevo il frequenzimetro, mi trovavo meglio in banda laterale, le frequenze, no? Adesso devi andare, questo deve andare con la tabella dei canali, col foglio, è un po' seccante. E vabbè, almeno si arrangia come può, no? Sì, ma comunque stai riuscendo abbastanza bene con questa apparecchio. Questo qui è quello nuovo che ho preso. Superstar 3009. Senti adesso Marcolino, guarda com'è adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Amplificato, 2 toni più bassi, sì, meglio, sale troppo perché se no strappa. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Comunque l'FM non è a tutti che sento come te, Marco, anche Giuseppe esce molto bene. Ci sono persone che le FM escono male, escono basse e basse di radio. Però ci sono anche persone che mettono tutta la manetta e strappano. Strappa? E lui ha regolato bene. Sì, abbastanza. Sei forte, perché se si sente l'altra stanza sei forte, però ancora va bene. No, è il microfono che è molto sensibile, capito? Ah, vabbè, però, caspita, per sentire l'altra stanza vuol dire che è bello teggio. Sono in cucina loro, addirittura, due stanze più avanti. Ok, scusate, mi dà, mi vado a stampare questa scheda. Ah, te lo fa un altro momento, c'è un bel tempo libero, te la vai adesso a stampare. È tutta la sera che ci sto pensando, adesso la stampo, adesso la stampo. Invece io avevo il coso, te l'ho detto, l'albero del microfono che praticamente era tutto molliccio, dovevo praticamente dall'interno dovevo stringerlo e non mi decidevo a smontarlo, perché speriamo che non ci siano molti inghippi, invece ho dovuto togliere tutto quanto, PTT, smontare tutto il circuito per arrivare a alle viti che stringono quell'albero. Già l'ho fatto diventare duro come cosa, ma poi a ripiazzare, me ne sono pronti i pezzi in terra, a rimetterli a posto e vedere come erano sistemati. Ci ho dovuto lavorare regolarmente un po', perché sinceramente non avevo mai smontato il microfono, il cazzo di telecamera dei pezzi. Adesso sono riuscito a metterlo a posto tranquillamente. Ebbene, ascolta, prima mi hai chiesto se mi piaceva la fotografia. Sì, ma dell'istituto d'arte, poi me l'hanno un po' fatta passare la voglia. Me l'ho chiesto perché c'è un'esposizione di macchine fotografiche molto belle, Olympus, Mamiya, eccetera eccetera, in quel negozio dell'usato, quello di Alleanza. Dentro una vetrinetta ci sono tutte queste cose, ti può interessare, vai a vederle. Sì, una scappatina ce la voglio fare, curioso. Comunque non è una filiale di Portobello, no? È uno nuovo, un'altra persona. Non c'entra nulla, lei mi pare che sia tedesca, roba del genere, parla un bel strano. Ah, vabbè, ci darò un'occhiata. Dov'è? Tu su, molto giù, a destra o a sinistra salendo? Salendo a destra, poco prima dell'hotel Bracciarelletta, lì. Ah, ok, dai. Ci faccio una scappatina, sono curioso di vedere cos'ha. Io per le macchine fotografiche prima usavo quelle reflex con la pellicola, no? Con la Pavattica della Germania dell'Est, l'elettronica, poi si era rotta, poi avevo la Zenith, quelle russe, quelle dell'anno 3. Adesso ho quelle digitali, ma di fascia familiare, la roba di fascia bassa, no? L'immagine si vede bene, però non sono reflex. Anch'io ho avuto la pratica, l'avevo comprata a Cucciari, ho avuto la Canon, ultimamente c'avevo la Mamiya, che era una macchina che si usa per fare matrimoni, eccetera, eccetera, con zoom, grand'angolo, 70-210, insomma, avevo tutta l'attrezzatura, il bossone, e niente. E poi, abbiamo comprato una Canon di quelle piccoline, uso familiare come dici tu, non reflex, ma ce n'è stata una di macchinetta che mi è piaciuta particolarmente, che ci ha comprato un amico, non l'ha pagata manco molto, la marca non mi viene, ma è una marca che non avevo mai sentito sinceramente. Però è una bella macchinetta, ho visto le fotografie e fa veramente bene. Chissà che marca è. La pratica io ho avuto nell'88-89, mi pare. Pratica BX20. E l'avevo presa anche io da Cucciari in via... No, Balle, l'ho presa da foto amica. Poi sa cosa è successo? Faceva belle foto a scuola, era appoggiata sulla cattedra. La professoressa ha un po' spinto il registro ed è caduta da meno di un metro e si è scassato l'otturatore. E siccome la Germania dell'Est è crollata nel 90, non si poteva più riparare perché la fabbrica aveva chiuso, capito? A me invece, sai cosa mi si era rotto? Mi si era staccato con la linguetta che tiene pressata la pellicola all'interno dello sportellino, quello sportellino che c'è attaccato, visto c'era quelle due linguette, erano attaccate con un punto di saldatura in coso, in plastica. Questa saldatura di plastica si è spezzata a furia di pressare, si è fatto forza, si è spezzata, ho provato a mettere l'acqua che non teneva, ho provato a mettere il millecco che non teneva, alla fine mi sono rotto le palle e ho preso e ci ho buttato tutto. Eia, il pressapellicola sì, si è rovinato. Poi noi abbiamo avuto in famiglia anche le Lubitel sovietiche, quelle che hanno il rullo 120, che hanno i due obiettivi sovrapposti, no? Uno per guardare e l'altro dove c'è la pellicola vera e propria. Si chiama reflex biottica. Sì, le conosco. Ascolta, si chiama Lumix, mi ha fatto illuminare la marca, Lumix. Corretto a City, siamo su un canale 10 in FM. Sorry, niente per la retta lì. You can a little bit English? No speak English, c'è Paolo Francais e Italien. Niente. Niente, mi dispiace. Bye bye my friend. Avanti va. Bye bye my friend, ce l'hai mandato. Oh ciao, uia uia. E beh, d'altronde non capivo niente, era mezzo tedesco mezzo inglese. Chi è che ha chiamato? Siamo su 10 in FM. Beh ragazzi, ci sentiamo più tardi se coincide, se no tenetevi salutati, dai. Tenetevi. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao Giuseppe, ciao, buonanotte. Siamo qua, quando vuoi entra. Se dopo che fa quello che devi fare, rientra. Grazie. Oh, Giuseppe, se fai la cena, buona cena. Avanti, Marcus 3. Allora, io Lumix, conosco questo nome, Lumix. Lumix è il modello, diciamo, è la gamma di macchine fotografiche. Però potrebbe essere Panasonic Lumix, oppure è una marca conosciuta. Lumix, diciamo che è una gamma che fa oppure un modello. Ah, Lumix è la marca, è una sottomarca della Panasonic, c'è ragione, è una sottomarca della Panasonic. Però ho visto io di fotografia un po' malintendo, grazie a Dio ho sempre fatto fotografie, ho fatto macrofotografia, ho avuto diverse macchine e ho visto le fotografie di questa Lumix e mi sono piaciute, veramente nitide, senza essere sgranate, con la zoomatura, niente, proprio perfetta, invece non è una bella macchina. Io non le conosco, però Panasonic a grandi linee fa buoni prodotti, soprattutto le telecamere mi piacciono molto. Allora, Italy, Sebi, ma non si trova, ma non è Paul, o prendo un Paul. Monique, my friend, Monique, ti stavo dicendo, Don Marco, che fa dei bei filmati anche questa macchina fotografica. L'hanno presa proprio per quello. E non è proprio una reflex, è quelle equilibri, dimmi che fanno adesso. Sì, capito, sì. Non è una simile Canon, non è male. Hello Cecilia, hello. Beh, Canon fanno delle belle foto. Io Canon l'ho avuta, purtroppo mia figlia l'ha portata in gita. Mi hanno fatta cadere perché l'ha appoggiata sulla panchina e cosa, e l'amica non l'ha vista, si è seduta e è caduta in terra perché era in cima e l'ha tutta sbarrata. Attention 3N, you copy Division 165 North Sardinia. Okay, North Sardinia, okay, I can understand you. Marco, they are Switzerland, my name, open. Perché Giuseppe Marco, ci saluto. Full name, the Paul, Frien, little problem. I do not understand come si dice parole? Do not understand language. Non lo capisco. Ma chi sta lì? Lascia, non risponde, è un saluto a due e tutte le donne a chiamare. Ma che mi lasciate fare i collegamenti, mi state ammazzando tutti i danni. Forse, mi senti anche... saluto e continuo a fare quello che stavo facendo, perdonate la mia trasmissione. Un saluto a tutti i circolari. Vi sento ogni tanto che ci siete, non siete molti, ma quei pochi che siete rimasti già vi sento. Ok, un saluto a tutti i circolari, a te Gianni, passo di cuore mio. Ciao Claudio, non sei l'unico a sentirci, anche io ti sento e vi sento. Posso dirti anche che stasera ti hanno detto che c'era la propagazione degli spagnoli. Sì, infatti ne sono spostato in 50 mega, lì non so se ascolti tu. Siamo spostati un po' in 50 perché la banda di Civetta è un po' particolare, bisogna stare sempre attenti quando c'è propagazione. Poi adesso con le antenne nuove, oramai stiamo facendo un po' di traffico da tutte le parti. Adesso abbiamo terminato il lavoro di Walter e adesso mettiamo l'altro qua, l'altra. Tre elementi che devo montare per 10-15, cioè 15-20 e 40. Va bene, dai, vi saluto, un abbraccio a tutti, grazie per avermi risposto. Marco, a te il microfono, allora passo in quell'X, ciao Eugenio. Di nuovo questo sito, facendo piacere, ciao, alle prossime. Ok, ciao Claudio, l'hai sentito? Passa più spesso, così manteniamo viva anche questa banda, che sarebbe un peccato perdere, a mio parere. Ok, e riprendi Gianni. Ciao Claudio, buona festa greca, e lo sai, quando vuoi siamo qua. Andare. Poi chi è rimasto? Ci siamo io, tu e le rose e anche Eugenio. Avanti Eugenio. Vediamo un po' se mi ascolta l'amico Marco, che stamattina mi sentiva abbasso dal camper. Campa Eugenio, io ti ascolto Santiago 4.5, la radio è buona comunque, dimmi se mi ascolti, cambio. Santiago 1, Santiago 1 a picchi di Santiago 2, però ti ascolto. Registrato. Sì, comunque ti ascolto meglio, forse ti ascolto meglio di come tu ascolti me, diciamo, no? L'antenna è quello che è. Avanti, prego. Buonasera anche a voi. La Sardegna, città di Sassari, che ti super cordializza. Cazzo! Non speak English, my friend. Ok, I can live with speak English. My name is Switzerland, Switzerland, Gravenden. My name is Gianni, operatore doppio room, cambio. English very well. Mexico, two stations with me, I'm sorry, I don't understand. Monterraggio, te l'ho detto l'altro giorno, io da Monterraggio ti copio a buon nome. poi da 48 ore se non lo so, da 48 ore accuderemo, però ho rimesso l'antenna piccola, ho rimesso l'antenna piccola perché l'altro giorno sono andato al gommista, mi sono dimenticato che c'era quella lunga, che l'ho abbassata e ho dovuto rifare, diciamo, ho dovuto toglierla e mettere quella piccola, così almeno non so quale ce l'ha fatta. Sì, io ho visto praticamente dove Monterasu, quella zona lì, e mi pare strano che io a sud arrivi in Oveli e a Porto Torres, che ce l'ho di fronte e la vedo, cioè l'antenna vede Porto Torres chiara chiara, io arrivi così basso. Non direi che c'è l'antenna storta. Per me è Gigino. Ehi, è tipo quella che hai fatto il tuo azzetta di quel camion che ho visto. Buonasera a tutti. Comunque, se vi fa piacere, a me tutti mi state superando il Santiago 9, compreso Marco il 9, 20 e 25 pure da me, e non so per quale motivo. Claudio, che ha detto che senza antenna, gira gira mi fa girare lo smith al rovescio, e tu Gianni non se ne parli, e Eugenio mi arriva 9, 10, 9 e 20 pure, come Marco, Marco mi arriva 9 e 20 a me qua, 9 e 20, 9 e 25. Io ho detto che non è che non ho l'antenna, sono a polarizzazione diversa dalla vostra, quindi voi siete a polarizzazione verticale, io sono a polarizzazione orizzontale. In questo caso tu c'hai lo stesso segnale che c'ha Gianni, quindi si fa una scala perché l'antenna adesso l'ho girata a nord e quindi ti prende proprio davanti e si fa una scala qui. Non è che non ho l'antenna, sono a polarizzazione diversa dalla vostra, voi verticale, io orizzontale, tutto qua. Proseguite, ciao Gigi, buonasera a te. Ja, ciao, Claudio, infatti tu vai a sentire come stai guardando il segnale, dopo alla fondo scala qua. No, ma anche Marco mi sta arrivando forte, 9.20, 9.25 Marco, e tu mi stai arrivando a me qua, capito? E infatti mi sembra strano, comunque non ti ho mai ascoltato così, dico la verità. Ricordami nominativo la zona di modulazione, qua è Condor da Viale Trento Alza, diciamo. Positivo, io sono a ottava, sono a ottava, Gigi Vulcano. Ho capito, sì, no, c'è cos'è, non stavo riconoscendo il segnale, perché io prima usavo l'antennina dentro casa, adesso ho messo una mezz'onda sopra e arrivi veramente bene. 9.15, però non contarlo questo segnale, perché lo smitter di questo baracchino è tirchio, non è uno smitter di apparato amatoriale, capito? È positivo, e vabbè, anche il mio non è che sia questo granché, però c'è il segnale, c'è... Non è una radio bassa, capito? Una radio di 5, anche Eugenio sta arrivando forte. Infatti Eugenio non è che sia molto distante da me, se a casa sua Eugenio non è che sia molto distante da me, dove il punto che lui, io a volte passo in camion e il segnale non è che mi cambia, anzi è un punto buono per Eugenio, è abbastanza positivo per Sassa Eugenio, il punto che lui è. Poi dipende anche in che zona è di Porto Torres, magari qualcuno è più favorevole, qualcuno è un po' più coperto, dipende dall'antenna, dall'altezza dell'antenna, tante cose. È positivo, ma lo so, io invece oggi ti arrivo bene a te lì, perché tu mi arrivi benissimo qua, Sì, sì, non c'è neanche bisogno di dirlo, no, capisco come mi arrivi basso Marco a me, blu. Eugenio, tu quanti watt stai usando? Io 10. Ma negativo, io sto uscendo con 5 watt, con 5 watt normali. Ti confermo, Santiago 4,5 e la radio è buona, la radio potrei darti anche 4. Vedi, non lo so, non so come dirti. Vabbè dai, l'importante è che mi senti, a malagana ma che mi senti. Sì, io anch'io sarò 5-6 watt, non di più, una cosa del genere sta uscendo questo. Però il microfono amplificato, già va bene, dai, arriva benissimo. Con l'antenna che ho io arrivo bene a Sassari, con la Mantova, dopo la turbomant, la mantova turbo arrivò benissimo e riceve benissimo pure. Ok, vabbè, poi questa antenna diciamo che è della mutua, perché vi spiego, io ho la mezz'onda che guadagna circa 2 dB, ho 50 metri di cavo RG213 che perde circa 2 dB, praticamente come se stessi andando con un'antenna a un quarto d'onda, cioè guadagno è zero con un dipolo un quarto d'onda da verticale. È positivo, allora stai andando anche troppo bene. Stai andando anche troppo bene. Eh sì, in teoria è così, guadagno zero perché una ne guadagna due, l'altro il cavo ne perde due. 50 metri a 27 MHz, grosso modo sono 2 dB di perdita e siamo a zero di guadagno. Ok, da, riprendi Gianni, vado a bere un attimo, rientro dopo, eh. Figlia, non ti lamentare Marco, che già arrivi bene, arrivi molto meglio di prima, ti ascoltano tutti adesso, ti hai fatto anche di ex, vediamo di più. Stasera lì c'era la Svizzera, c'era la Germania, NFM che ci chiamava, insomma, un po' c'era lo schifo lungo. Ma ricordi, io non lo sentivo prima qua, ottava e a Marco, sentivo che parlava con voi, lo sentivate basso voi, io non riuscivo mai a sentirlo qua, e dico la verità. La prima volta avevo detto questo segnalone qua, che mi sta arrivando ora, che c'erano uno segnale 9.20 e 25 pure, 9.25 mi sta arrivando a me qua. Sì, sì, sto scendendo bene, io l'ho sentito da Monterrato, arrivava a Santiago 9, infatti mi è sembrato strano che a Porto si arrivasse così basso, probabilmente la zona non coincide, invece da Monterrato è tutto libero, capito? Sì, sì Gianni, ma l'ho notato qualche volta, io a volte capita in camion viaggiando, faccio un tratto, poi faccio, basta che mi sposti 10 metri viaggiando e risento nuovamente la palla. Secondo come capita, certi punti proprio sparisce quasi completamente, mi bastano 100 metri e nuovamente da capo, e la ricezione nuovamente è buona. E anche la trasmissione, capito? La camion forse dipende, boh, non lo so. Può capitare, dai. Io il punto mio è molto buono perché sono positivo quasi a tutte, dove sono messo io diciamo sono buono, non sono come quello di Claudio perché forse qua uno dei migliori punti, la zona la migliore penso che sia quella di Claudio, quella di Claudio, perché Claudio si trova proprio in un punto buonissimo, ottimo per come c'ha le antenne, lui lì è una zona proprio, penso che sia una delle migliori di Sassari, essendo a Sassari, là dove lui, credo, che sia una delle migliori, anche dove Pomponio è alto, però anche Claudio è più, forse ancora più libero dal punto che lui. C'è la buona anche Grode, la zona, non l'ho sentita Grode, arriva bene anche lui. Comunque Claudio, oltre ad essere come zona alta, è alto anche come palazzo, è normale che vada meglio. C'è un grido, quella è lineare naturale. E lo so, basta sentirlo quando lo senti, ma com'è a cosa? E attenzione, c'è un altro, io non so dove si è messo, c'è Coso, Fabrizio, io non so che punto sia Fabrizio, guarda che Fabrizio non è a meno di Claudio, quando lo sento di Amacomere non è a meno, Fabrizio, attenzione. Non so, Fabrizio rimane dietro via Montegrappa, quella zona lì, dietro. Comunque io l'altro giorno ho parlato con Albino e ti stava cercando, mi ha detto, non hai sentito a Gigi? Positivo così. Ma dove era? Ma non era a casa sua, era stato. Invece Claudio ci arriva da Albino. A casa sua era. Lui Albino lo sente a Claudio, non so se a lui, forse Claudio pure sente a lui, non lo so sicuro. Però a Claudio lo sente Albino. E come che lo sente? Sono arrivato a Santiago 4, Radio 5, se lo può confermare. Ho detto, sono l'amico di Gigi, ma ha sentito l'ASA? E ho detto, no, oggi non l'ho sentito per niente, l'altra mattina verso le 9, così. Ho capito. con questo o con un altro. Non lo so, ma penso che fosse a casa sua. Sarà con quello di Miana Sarto. Oh, quello era in Corsica, sentivo, non... Propriano andato verso Bonifacio, lo sentivo sempre parlare da su da Miana Sarto a quel Roberto Turco. Lo sentivo parlare sempre, non è che avevo la radio forte, ma lo sentivo sempre parlare a Roberto. L'unico che sentivo in Corsica. Esatto. Anche a me. Ah già? E stavo parlando con lui. È positivo, in Corsica, arrivavo in Corsica, sono era in Grecia, quando ieri ero in Grecia, lo sentivo in Grecia, arrivo a Cagliari, lo sento a Cagliari, perché Miana Sarda è in altissimo, in montagna un po' alto, cavolo, lo senti, anche quando sono qua a Florina, lo sento benissimo, io l'ascolto, Floaghe, quella zona lì, lo sento benissimo a questo Roberto, tranne che qui a Sassari non lo sento. E ti ripeto, a Inglesia, lo sento a Inglesia, lo sentivo benissimo a Inglesia, tutto Cagliari, ma Inglesia. È molto alto come coso lui, no? È vicino a Rizzo, Tonara, quella zona lì, capito, Miana Sarto. Dove ci sono le castagne? Sì, ci ho fatto una pasquetta a Rizzo, all'hotel Samuvara. Così ti restano tutti alti così lì. E a me come l'ascolti, Gigi il Vulcano? Questo è Grotte, buonasera. Grodino, A te, ciao, buonasera Gigi. No, ti ascolto benissimo. Diciamo abbastanza bene. Un po' diversa come microfonia, come radio. Abbastanza squillante, ma benissimo però. Ti ringrazio, è tutto ricambiato. Ricambiare molto, mi. Va bene perché stai andando bene, però non ti gasare, adesso che ti ho detto che stai andando benissimo. E tu immaginati che ho ancora 10 metri antenna a tirare su, figurati. Cacchio! E tu tre che tiri antenna che se non c'è il radio per modulare dopo. No, il problema è che ho anche il radio per modulare. Poi grondaia! Un mittico, e perché sei sceso adesso di segnale? Ti stavo ascoltando prima ed eri a bomba. Con chi c'hai, con me? Con te. Non so, non ho toccato niente. Aspetta, eri attenuato leggermente, adesso stai arrivando 7, radio 4. E perché con Gino, l'amico nostro l'hai visto? No, e no. Che fine ha fatto? È Uccel di Bosco, compa. Di nuovo Uccel di Bosco, ma non era fidanzato? È solo 25 anni, e so che si è lasciato. Allora dimagrisci ancora di più questa volta. Evidentemente Gigi, qua c'è la potenza adesso. Ti ripeto, adesso appena tiro su di 10 metri vedrai, spengo tutti. Ah, io credo che l'avessi già alzata. Negativo, vi siete sovramodulati. Avanti Gigi perché ho sentito il Condor. Positivo perché è andata bene, se lo faccio mettere. Ho detto, a me già no, non mi fa niente, tanto ci ho sempre spento l'apparato. Vabbè, da questo punto di vista ci mancherebbe. E mi dispiace che ce l'abbia spento perché si sente la tua assenza, Gigi. Il tuo lavoro, la cosa, la stanchezza, hai capito? E non ne ho voglia la sera. Adesso mi sto trattenendo che domani mattina vado andare negli astrami. Capito? Vado andare negli astrami, mi sto anche trattenendo, non so neanche che ora sia, mi sto trattenendo anche troppo, mi sto trattenendo. È presto. Comunque io rimango in quel rizzo un attimino che sto finendo di fare un lavoro. Riprendi Gianni, vi ascolto. Vabbè, buon a chi tocca? Marco Condor, avanti, a te il microfono, prego. Dicevo, io credevo che l'avesse già sollevata l'antenna, perché arrivava forte, il cacchio, altri 10 metri è un bel. Vuol dire che arriverà forse anche più forte di te. Vediamo che arriverà più forte poi, forse anche più di Roberto Quadrato. Va bene, riprendi Gigi Vulcano. Sì, Marco, ma sai cosa succede? Inizia a salire troppo e lui, allora, 10 metri non lo può sollevare, perché se lui la solleva 10 metri gli dura poco, perché il metro stesso gliela butta giù. Se lui, da quello che con me ce l'ha sollevata adesso, l'aumenta altri 10 metri, stai tranquillo che il metro gliela butta giù, lui gli dura poco l'antenna. Innaggio. Basta mettere i tiranti, 2 punti, già ridura. Tanto chi lavora sono i tiranti. No, più lungo la metti, più vento prende, non c'è tirante che regge dopo. Io mi sono comprato un traiccio per lene, me l'avevo piazzato lì l'antenna. E a tutti i primi dici che io ho visto l'antenna con un pale di 15 metri, non di 10, di 15. E con i tiranti non l'era mai buttata giù. Vuol dire che se tirante a tabella l'antenna, che ci sono tiranti sopra e tiranti sotto, come deve essere tirata, non si muove, non ti preoccupare. No, io ne ho visto buttate giù da antenne, come buttate giù? Il vento a volte è imprevedibile, a volte arrivano queste raffiche di vento. Io ho visto la mia l'altro giorno, c'era questa raffica di una, tipo un tornado sembra. Sai come si è piegata? Eppure ho visto che è tornata dritta, ma sembrava, se mi ho detto la butta giù, questa volta non la butta. Detto, se non la butto non la rimetto più sopra, Se ne butta il vento, non ne la butta, ma se la dovrebbe spezzare, perché di buttarla diversamente non la può solo spezzare, capito? La può solo spezzare, buttarla proprio perché sono i tiranti. E non, ne ho messo non uno, ma ce ne saranno minimo 6 di tiranti, non 2 o 3, non ce ne sono, se te ne rompe uno ce ne sono altre 5 attaccati. Io ne ho messo 9, per non sbagliare, ma da me tira il vento, io sono in alto. A me tira forte, quando c'è il maestrale chiede a Claudio, mi dicono, stavo piattato quel giorno, cosa è successo? Sta avvicinando un dubbio. È positivo, positivo. Dillo a Claudio quando ci abbiamo messa su, come, come ce l'abbiamo messa su, come l'ho presa, montata e tutto, l'ho presa e dritta così, se sopra il tetto, ovviamente ce l'è stata dentro il tubo, dentro la cosa. Ma tu già sei in pace, già viene bene, sì. Ma va bene, nel mio tetto si può passeggiare, perché di quelli a terrazza praticamente c'è il catrame e la ghiaina sopra, ci cammini tranquillamente, solo che per mettere l'antenna siamo dovuti salire sopra la torretta dell'ascensore. Due tirare con i tiranti che c'avevano a tirare sull'antenna, gli altri uno la entrava e l'altro affittava. E già l'abbiamo fatto, però c'era un vento, 120 km orari. E l'avete trovato il giorno giusto, no? Noi l'abbiamo fatto bene con Claudio e l'abbiamo fatto un bel lavoro, dai. Abbiamo fatto un bel lavoro e rispetto a stazionare dicono non ho niente. Nulla, proprio zero, no? Ce n'è neanche se attacco qualche cosa di grosso, c'ho stazionaria, no? Ho azzeccata bene proprio la prima, Abbiamo azzeccata la prima e va benissimo, va bene, me l'ha tutta vulcanizzata, l'ha fatto Claudio, dai, l'ho fatto piazzare a lui, montare a lui e ha fatto un bel lavoro, diciamo che abbiamo azzeccata senza stare a toccare più niente, l'abbiamo azzeccata a primo coso, dai. Ciao a tutti, ci sentiamo, va? Ciao alle prossime, ciao a tutti, buonanotte. Ciao Luigi, ci sentiamo, buonanotte, avanti. Ciao oggi, ciao, buonanotte, vai Marco. Ma non ci vieni più allo scandalo, al Calister? Come a me stai dicendo? Via. Non ci vengo più dove, non ho capito. A imbarcare in Corsica, per la Corsica. Cioè, la settimana scorsa non ero in Corsica. Dove ero? Era in Corsica due giorni. Venia. Senti, martedì scorso sono andato in Corsica. Ho preso martedì scorso da produttore, e poi sono tornato da Bonifacio. C'ero settimana scorsa. La prima mi dico invece che ero diventata in Corsica, hai dormito in Corsica e c'è mai vedo la dormire due notti, non una notte ma due notti. Ma in cambio hai dormito giù di Sanna al rientro. Va bene ragazzi, buonanotte, ci ti dimmo alla Torres, ciao a tutti, ciao. Ho detto in cambio hai dormito. In cambio ho dormito, io dormo meglio in cambio che in albergo. Che in coso lì in Corsica si dorme meglio in camion che dormire in quelle case, in quelle cose di come si chiama. Però freddo. Non era freddo, no, ce n'è freddo in camion, no. Io del buio schiaccio vicino c'è l'ultimo, c'è la luce, c'è il pulsantini, posso fare quello che voglio, posso fare la temperatura che voglio dentro il cabina io. E come funziona la velocità del piantapacco? Ma se fate, cosa c'è, il calamento autonomo c'è. Però, grazie lo vedi, in albergo è. Se dorme la meraviglia, ma stai scherzando. Ma metti la tua temperatura che vuoi tu e se si abbassa quella temperatura, un'altra volta lui va in automatico e ti tiene, se tu lo vuoi 25 gradi, dentro il cabina 25 gradi rimangono, vuoi, quei gradi che vuoi ti tiene. Dormi tranquillo. Tranquillissimo, capito, tranquillissimo perché so che ero tranquillo, capito. Sì, perché... Sai cosa, è meglio dormire in camion perché magari te lo aprono, te lo fanno, sa, ci sono sempre queste bande che aprono i container, i rimorchi, eccetera, eccetera. Sì, no, in Corsica niente, in Corsica ti fanno saltare in aria, capite? Se sei dentro salti insieme al camion. Ma devi aver fatto qualcosa che già lo so, sì. Un amico mio lo faceva il custode in questo cantiere, diciamo, di Sassari, di gente di Sassari che hanno fatto lì in Corsica. L'hanno avvisato, gli ha detto questo qui, siccome c'è un amico stanotte non ci stare perché se stai lì stanotte salti anche tu. Come saltare anche tu? E tu non ti preoccupare, vattene in albergo a dormire. Se andando in albergo ci va la promessa che ti hanno fatto brincare, turbato, quasi finito. Già lo so, già lo so. Purtroppo è così, è così. Non voglio, infatti noi andiamo, portiamo, perché ce lo ordinano loro, il materiale, scarichiamo e torniamo butti, non carichiamo nulla dalle iene, legna, legname, nulla, torniamo butti. Perché non te lo permette di tornare a carico. Ah, figlio di un nostro uomo che non voglio fare il nome, che guida l'imbarcata del porto in Corsica, che l'ha messo sull'imbarcazione a lavorare il padre, ha parcheggiato la macchina nel porto, non l'ha trovata senza ruote, tutta con i vetri rotti, eccetera, eccetera, no, non fanno. Lì non vogliono gente di fuori a lavorare, vogliono gente solo dal posto. Ma no, gente di fuori ce n'è, tranquillo, stai scherzando, loro non lavorano. C'è molta gente di fuori lavorando, loro controllano e basta, capito? Loro controllano, e boh. Sì, ma se non gli va bene una cosa subito ti mettono, sono bombaroli. Cosa stai dicendo? Stai dicendo a quello di Pittau, quello che non aveva bruciato, messo a fuoco la notte. Carico di legname, di legna, ha messo fuoco, ha buttato la benzina, ha messo fuoco. E poi con legname gli hanno pigliato buco. E poi l'ha fatto la benzina pure. Allora, ha fatto un viaggio, l'ha fatta, ha detto che era parecchio. Fece sì che loro hanno scoperto che lui stava vendendo, non so che cosa. Aveva chiesto la cortesia, un viaggio per lui. Da un viaggio da pure approfittemmi. Mi dice no, un viaggio l'hai fatto, lui so troppo. È tutta una roba che loro non vogliono esportarla, ma perché? Perché tutti la esportano la roba che c'hanno, ovviamente. È un guadagno, non capisco loro perché. Cosa vuoi che ti dica? Una cosa che ho notato, avevamo lì mangiato la notte perché avevamo una greffa, La greffa, gente che c'è 10 anni lì, Gente che ci viaggia, che c'è 10 anni insieme a loro, infatti io sono rimasto sempre a loro e viaggiato insieme a loro, sono arrivato a dormire insieme a loro, a fianco a loro, sapevo, capito, già tranquillo dove ero parcheggiato, che ci sono da anni, che io ero insieme a loro, dai, hanno già visto che ero insieme a loro ed ero tranquillo, sono tranquillo quando vado lì per quel motivo lì, capito. Diciamo questi si comportano bene e hanno un buon rapporto d'amicizia di tutto e niente e da lì non sgarrano, rimangono e ci sono già c'è gente che c'è 10 anni lì e dorme tutta la settimana lì, capito, lì in Corsica ci dorme tutta la settimana in camion, addirittura quando c'è freddo, a volte d'estate dipende, a volte dormono in albergo, a volte dormono in camion, la maggior parte dormono preferisco più dormire in camion che in albergo. Gappa gappa. E Marco, lo sapeva dei semafori, Marco? Dimmi già. Sapevi che i semafori in Corsica sono diversi? E che senso ha? Non sono uguali in tutti i paesi europei. In Corsica non mi dicevo che... Il rosso sì, il rosso c'è sempre, attenzione. E al posto del verde c'è il... allora, il giallo, l'ampe c'è il giallo, l'ampeggiante, il giallo lampeggiante e il verde, capito? Quando tu c'hai il giallo lampeggiante e diventa giallo fisso, sta per scattare il rosso. Come fa qua? No, a volte c'è il verde e esce il giallo, dal giallo passa il rosso. E lì così fa lì, e lì quando sta lampeggiando, il giallo lampeggiando e il verde, in poche parole, puoi passare. Quando sta si diventa fisso il giallo e sta per scattare il rosso, capito? Però che senso ha? E cosa vuoi che dica? Io ho sbagliato, non mi so, così ho visto che era, che il giallo cos'era fisso, mi pare. Non ho capito bene come cavolo fosse, ci sono passato io. E poi mi sono incasinato la vita, perché tutto fosse stretti e via dicendo. No, forse qualcuno di questi che mettono il lavoro in corso, c'è il verde, dai, quelli che mettono con la batteria, che lo mettono provvisorio, no, quando stanno facendo lavori, che mettono così, alternata la corsia, e mettono sempre, quello, qualcuno di quello l'ho visto quel che esce il verde, capito? Devi stare attento perché è un casino. Quando il giallo è lampeggiante, per andare verso Aiaccio è così, tutto così sono i semafori. Invece dall'altra parte trovi qualcosa di verde, capito? Ci sono entrambi, capito? Se no, sono divisi, ma a volte lo trovi quello e devi stare attento perché invece del verde c'è il giallo che l'ampiccia, capito? Ma è strano, eppure la Corsica è francese e in Francia hanno il, come da noi, rosso, giallo e verde. Ma non è così, e io ci vado spesso, Marco, ci vado spesso, ed è così, capito, ormai ho capito come funziona, ed è così. E trovi anche quello verde, ma la maggior parte sono tutti gialli, così, non c'è il verde, c'è il giallo che lampeggia, il giallo fisso che sta per scattare il rosso, boh, basta, al posto del verde c'è questo giallo che lampeggia, capito? Tutto a conto loro, Eda, sia il modo di fare che i semafori. Ne prendi Gianni. Il modo di fare è quello di tutti i gallurici, là. Nella gallura lo stesso sono così, sono come i corsicani. In gallura mettono bombe da tutte le parti, guarda Olbia, locali che incendiano, mettono bombe, di tutto. Ehi, a Orsei, a Tortoli anche. Comunque, non ti volevo dire, c'è molte cose, per esempio c'è Grosseto, c'è Portopollo, ci sono tanti così nominativi, capito? C'è proprio Grosseto, no? Una frazioncina si chiama Grosseto. Ah, proprio frazioni lì in corso. C'è Olmetto che è un paesino stretto, Olmetto e poi c'è trovi quello che Grosseto, ed è poche case, e c'è scritto proprio Grosseto come Grosseto elittico. Come Grosseto del continente, là. Non ho molta fantasia. Io una volta sono salito sulla nave corsicana a fare una consegna, c'era il furgone pieno, allora c'era il magazzino con un letto dentro, pare che sia in terra. E poi mi hanno fatto andare dal comandante sopra per incassare. Sono salito su con la fattura per incassare e c'erano queste belle ragazze che stavano facendo i liti nelle cuccette, no? E io gli ho detto, bonjour à tout le monde, in francese, no? E loro, oh, vieni, tutte quante con il sorrisino. È positivo, è bella mia la nave, quella di Tolone, che va a Tolone dopo. Allora, è bella quella nave, è bellissima, ho un casino io con quegli ascensori salendo, te lo vado a cercare. Oh, ci sono già salito tantissime volte, se non sono insieme a quelli là, a loro mi perdo dentro. Ricordo mica che è grande, mi sembra, non sembra mai che. Allora, è un po' complicata, perché ci vado sempre in nave, me ne prendo da Porto Torres per Civitavi, per Genova, da Genova al Coso, da Ulpia, ma questa di Tolone, cazzo, è un casino questa nave, cazzo, proprio è un casino veramente, cazzo, devo sapere tutti i tipi, cazzo. Certo, sono dicendo che sono tutti attrezzati, hanno muretti, magazzino, un bel grande. Sono tornato a Retroma, ho cercato col muretto, hanno preso, mi hanno caricato le roppare, sono tutti organizzati. Abbiamo fatto un bel di roba, acqua, spesa, un bel di carne, bibite, un po' di tutto, caffè. Positivo, non c'è scritto nulla in italiano, tu quando sei in quella nave, qualsiasi cosa vuoi di indicazione, dico non c'è scritto nulla in italiano, tutto in francese, capito? C'è scritto tutto in francese, non c'è nulla in italiano, che poi questa nave va a partire da Protore e va a Propriano scarica tutti i miti e le cose che c'è, niente, fa sentire che dicendo e ricarica, contemporaneamente ricarica subito ricarica e parte per Tolone, capito, da lì, dalla costa, da Propriano. Ecco, fa doppio viaggio, è una bella nave, quella che ci mette gli altri fondali, no? Sì, adesso prima stava mettendo lì dove c'era smantellato, sai, quelle gru lì dove c'era madre lì, e invece adesso l'hanno spostata al Moro Asi, è al Moro Asi adesso. Ah, ho capito. Vabbè. No, già è una nave grande, ha fatto un bel di spesa, te lo sto dicendo, una volta che ho portato un bel di acqua, una pedala di acqua, un sacco di roba da portare. Ho fatto una spesa grossa e adesso d'estate cominciano queste imbarcazioni che vengono, consegna al cormorano, al molo del cormorano, via, e cazzo mia nave, tutte pelle di donne, di cose, belle ragazze, cazzo, con questi vecchi barbuti sembrano quelli intorno allo stronzo. Positivo, invece che dare buone facce, capisci? Le cose, quelle serie dure, cazzo, sedenti, è un pane che va, per carità. Almeno il caffè ti fa buono quella lì, troppa l'italiana, quella da Bonifacio qui a Santa Teresa, dai. Almeno il caffè lo fa meglio di come lo fa. Vita francese, no, quella grande è una bella nave, una bella cosa, ma il caffè proprio non fa berne. Quella che prendiamo da Porto Torres, quella bella russuosa. Ui, non fa, perché fanno il caffè alla francese. Ma va bene, tutto si può avere. C'è una bella eccellente della Grimaldi. Ragazzi, quella lì è una nave veramente eccezionale. Commenti, ti fanno il saluto, tutti quanti marinai in fila, ci sono da una parte all'altra. Ti vengono incontro, ti danno la scheda, ti accompagnano alla cabina, cosa che la teorina che ci servissero in base. Ma che baricato, Marco. Magari si mettono anche a 90 gradi. vabbè, un'altra mentalità. Comunque il caffè era francese, me lo ricordo, ma avevo la macchinetta. E praticamente quella brodaglia lunga, che è il colore del tè, che di caffè ha ben poco, uno schifo. Infatti ci ho buttato tutto. Avanti, mi sfugge il nome attivo. Avanti ottava. È positivo così, e loro lo bevono così, a me non fa. Cerchiamo di farglielo fare corto, ma non venite da fare. Loro lo bevono anche mangiando, questo che fanno quasi un quarto, perché a mezzogiorno mi manca un po' questa tale sottaria. E quelli di colazione, che metti il latte per fare colazione, quelli da batteri, come le vuoi chiamare, quelle tazze in ceramica per alte, con quello se un tazzone così ce ne lo fanno. Giustamente c'è il tanto di un caffè ristretto che facciamo noi, è allungato con tutta questa cosa, che poi non so che sapore può avere questo caffè. No, io perché tanto la mattina presa alle 7 lì, una volta sono andato a questo lì a Iaccio, a questo porticcio, questo porto, e sono entrato dentro una cosa, neanche so se era male, era di tutto, c'era alimentari, di tutto c'era dentro qua, e c'era la macchinetta, quelle normali possiamo avere noi in casa, di quelle lì. No, tutti mi hanno invitato a prendere il caffè, tutta la tazzone, queste tazzone grandi di bevendo, capito? Ci stanno mezz'ora bevendosi questo caffè, capito? Lo bevono piano piano. Ma tazzone, proprio tazzone, una cosa impressionante. Non bevono il latte, ma va caffè. Tipo fanno uno caffè latte, capito? Solo caffè però. Anche gli americani fanno così, è una boccheria, è come mettere 200 millilitri di acqua nel caffè, ma va via, carità. Buonasera Pomponio. Buonasera a tutti anche a voi, e ben sentiti Santoni. Ciao Pomponio, buonasera. Anche a voi buonasera, e beh già, non sei uscito? No, stasera no. Stamattina siamo usciti. Ah, ok, non c'è problema. Dovete fare una chiamata a cosa Giuseppe stasera. Era come 5 secondi, poi non è più chiamato, altro d'orchestra. Ciao Pompo, stamattina ho visto l'amica tua, Sono andato a trovare l'amica tua. Io invece sono andato a casa, non c'era. Non so come. Diciamo quella volta, No, di mattina solo e mezzo che. Quindi evidentemente quelle cose stanno male. Per chiedere anche lui. Perché soprattutto come facciamo mattina e sera. No, stamattina c'era dalle 7 era già lì. Le 7 era già lì stamattina. C'era lì all'apertura stamattina. No, evidentemente sta fallendo, perché prima facciamo mattina e sera. Dalle 7 mattina fino alle 8 e mezzo, 10 di sera. Invece evidentemente è calato il lavoro e quindi resta dei turni. Ho chiesto stasera verso le 4 e mezzo, con Giuseppe ho chiesto. Di solito l'avrebbe sempre, invece non ho visto più. Ho detto, è morto, ho cambiato la destinazione, questa invece già è lì. Sì, è la tua bella pippata stamattina, era lì. Era tutta bella pippante, tutta bella sorridente. No, già c'è, è passata in forma pure. Meglio così, già è buona comunque, è una bella passata si può dare, tanto è la sola poveraccia. C'è un bisogno di un ragazzo buono, che voglia bene, quindi. Ci sono io. No, te la presento, non è problema. Non ci sta un problema, te la presento, se la vuoi, te la scusi, e sei tranquillo. Marco, scappo, sto cercando l'uomo. È Lina si chiama, mi pare vero, io ho poco. Si chiama Nina, non Lina, Nina, con la N. È positivo, mi ricordavo qualcosa del genere. No, bellissima ragazza. Bella ragazza, quanto bravo, vuole essere maltrattata in canne, è vero? Qui ci sono ancora anni o meno. Tanto hai detto, non le dimostra, è abbastanza giovanile. Io non perché c'è da me. Guarda che Marco c'ha, quanti anni c'hai Marco tu? Dillo tu a sentimenti di persona, c'hai più o meno 40 anni anche tu. Ne ho 41. E ne faccio 42 ad agosto, se ci arrivo. Ma va, se ci arrivo. Magari mi fare un laio. Come dici, bare un ragazzino, io non ero come di me. È positivo, e io per lo stesso, cioè gli anni miei. capito, e niente, quelli sono. Allora, quando ero allo scoglio lungo al mare, avevo 33 anni in quel periodo, e una di quelle signore mi fa, che mi conosceva, e ascolta, ma ti sei diplomato? Io ho detto, signora, io ho 33 anni, e già da un dì che mi sono diplomato. Come c'è Marco, ragioni? Papà. Ragioniere, sì. Figlia, c'è ragioniero. Che cazzo allora? Ma mi ci sono pulito il sedere con quel diploma. Ma bene, mi. Perché ce ne sono un bel ragioniere. Guarda, potresti fare amministratore condominiale, qualsiasi cosa. Ehi, però, e poi avere a che fare con i condomini è uno schifo, già ho a che fare con questi che non sono un granché. Va bene, dai. Riprendi Antonello. Abitato con il giudice, non so, no, meglio niente. Lascia perdere che ci sono i condomini, sono mezzo pazzi. Tu guardati a Gianni, lui sta sale sopra, sta creando dei condomini e aspetta la 27 per guardare la televisione. Adesso, come dire, l'amministratrice è una che c'è qua, antipatica, no, abita nel palazzo, è una condomina anch'essa. Aspettate appena sale su e vede l'antenna. 6 metri più 4 metri e mezzo di antenna, le viene un infarto. Ragazzi, io mi sa che non ne ho sonno, però vedevo domani mattina sarà alle 4 e vi devo salutare, non ne ho sonno, però cerco di andare a coricarmi perché sennò domani mattina è tripola per me. Dai, io chiudo e vi saluto, dai. Riprendi già per i salutini che io me vado a riposarmi. E allora dici, vai, che domani deve essere Ghizzulano. Buonanotte, va, ci sentiamo, potremmo accoppare domani. Avanti, Marco Condor. Ok. Alla prossima, buonanotte e buon trabacco per domani. Avanti Antonello. Ciao, saluto di buon tutto, buon collettivo lavoro a Novari. Ciao a tutti, comunque io Marco ho superato i 42, 52 e qualcosa in più pure. Va bene, buonanotte a tutti. Ciao. Dici di andare a 53, no? E sicuro, che è 64 quasi. Non mi ricordo male forse. Coda. 58 sì però. E mai arrivo. Poi baffi da Barbiero che c'ha. Non ti incontri con quello di mezzo, poi del resto non conta niente, già lo sai. Infatti funziona il quello di mezzo, è quello che conta. Quello giovanile. Credo, interessante se il giovanile entra, avere lo spirito arrivo, allegro. Davvero si dice così. Quando ce lo presenta, lui lo fisca sempre. addirittura. Ah, ok, da, non lo sapevo, da. Credevo che avessi un cognome più sardo. No, il mio è continentale, mio padre era di Milano. Comunque lui è indiano, io se, poi il cognome già lo sai. Vabbè, non parliamo di uccidi, che se no poi se c'è qualcosa in ascolto c'entra. Adesso gli do un baracchino. L'ho già dato io oggi, non mi sto oggi, la verità. Gli ho dato un ultimo dove c'è. Mamma mia. Oh, io lo sto vedendo da Ocean, sempre solo, che va avanti e indietro nel corridoio, suonato, c'ha l'aria da suonato, da frastornato. No, io non l'ho più visto, una finta che non lo vedo. È bello grasso, capelli bianchi un po', sono più bianchi che scuri. E subito mi ha chiesto, ma il telefono ce l'avete sempre? Ho detto, no, se il telefono l'abbiamo tolto, se no quello chiama subito. Mi ha detto se voleva entrare. No, ha detto che a Sorso gli avevano fatto delle cose, aveva messo un'antenna e gli hanno fatto casino, allora la sorella gliel'ha fatta togliere. Vabbè, a Sorso ce ne sono che c'hanno le antenne e gli fanno messo un casino, dove c'è che disturbava? No, a quanto ho capito gli hanno fatto scherzi, gli hanno, ha detto gli hanno buttato non so che cosa, boh. Magari ci hanno ammalato, poveraccio. Oh, vabbè che a Sorso non devono dire niente, ci sono più macchi dentro. Pochi io che sono su Sinchia l'ascolto. Vabbè dai, si dice così. Sono quelli che hanno bevuto acqua alla billetera però. Volevo dire, ma Dalghero, non ce ne sono CP. Dalghero non sento mai. Boh, non sento parlare nessuno. Sì, c'è Marco Ancona. E basta. E c'erano altri, c'era. Come si chiama? Gambero Rosso, qualcosa del genere. E poi ce n'erano altri due o tre, però non li sento più, ai, fa male il braccio, non li sento più, capito? Ma vi risulta ad Alghero un Tex o Tex Wheeler? Ma è nuovo? No, boh, non so se c'era un Tex, ma non mi ricordo. Boh, perché su un forum c'è questo che diceva che entrava con il nome di Tex. Ah no, vale. Era il nome degli anni 70, Tex. Ah ecco. No, non mi risulta, non l'ho mai sentito mai con gli anni 70. Tex, già me lo ricordo io, già. Era l'amico di quello che guidava la macchina rossa. Ma di dove? Di Sassari o di Alghero? Di Sassari. Aspetta, io ricordo un Tex di Sassari, ma era messo molto male. Ehi, Tex, quello di Sassari ha appena fatto le sole. Lo vedevo malicido di King Kong, si chiama il soprannome. Ehi, quel ragazzo che ha avuto, diciamo, la polio. E poliomatico. Com'è? Poliomatico. Non ha attaccato un cartone alla macchina, era uscito poliomatic, con i barattoli che suonavano, quelli che mettono a disposizione, i barattoli dei corsi, dei pelati che bastavano, a Sacro Cuore. E poi lo chiamavano, un video di un malicido di King Kong, quando camminava li cantavano, da da umpa. Che bastardi. Sì, uno una volta... Siamo passati davanti al Campari perché io lo conoscevo, la compagna mia di scuola, credete se lo conoscevo, l'impianto in macchina non gliel'ho fatto io. Praticamente siamo passati davanti al Campari e uno ha detto, lo spastico, ti devo pompino. No, così non va bene. Vabbè, scherzare, ma così è da caffoni proprio. Ma è da stronzi proprio. Sì, comunque gli hanno fatto un bel di scherzi, sì, comunque Tex era lui, ma era Pierfranco Desole. Me lo ricordo. l'avevo conosciuto tramite Sandro Satellite, che me l'aveva fatto vedere nella sua via, me l'aveva presentato nella sua via, in viale, come si chiama? Non Caprera, via, vabbè, quella più giù di via Caprera, la parallela. Eravamo lì. No, è un nome lungo, cazzo, questo è Alzheimer galoppante però. Già che c'è la era. Ah, è vero. Ecco, quella lì, questo è Alzheimer, non mi ricordo i nomi delle vie vicine, vabbè. Via, va bene. Mi ricordo che Sandro Satellite aveva la 126 verde oliva e aveva quell'antenna nera con la mollone alla base, tipo quella che aveva Giuseppe Leoncino poco tempo fa. Ehi, ehi. E per Franco a scuola, sai cosa faceva? Era già poi domenico, poi ha provato una spinta, l'hanno buttato dal marciapiede sopra la sponda di questa motocarrozzella, gli ha bucato l'occhio e ha perso l'occhio, quindi hanno messo l'occhio di retro. Cosa faceva a scuola? Si toglieva quest'occhio, il trappello di cispa, cazzo, per pulirselo, e rimaneva senza l'occhio e ci faceva spaventare. Ai, mamma mia, e fallo in privato. Me ne immagino, sì, l'avevo sentita questa storia, che l'hanno spinto e ha beccato la quella zona dell'occhio contro il camion o camionetta, quello che. Bella gente, quello che l'ha fatto e non lui. No, una motocarrozzella era, una motocarrozzella con la sovrasponda. Sì, poveraccio. Va bene. Oh raga, io sono tutta la sera tra computer e radio, sono un po' assudronato, vado a cenare quasi quasi, vedo che sono le 11:15, quasi quasi vi saluto, dai, buonanotte Gianni, buonanotte Antonello e Claudio che è all'ascolto credo, buonanotte a tutti, dai. Ciao ciao, buonanotte e buona carica. Cazzo, ma tu come fai a digerire di notte e mangiare da questo hamburger? Oh già, io posso mangiare peperonata alle 3 di notte, digerisco tutto. Ah, aspettate anch'io così. Oh, ogni tanto mi viene un po' di bruciore, mi viene un po' di bruciore se mangio, che ne so, roba al sugo o col caffè, anche mi fa bruciore. Però a digerire digerisco. Beh, se c'è bruciore di stomaco non è che digerito bene. Gappa gappa. Vabbè, comunque io ho scoperto che cos'era quel bruciore che avevo. Erano le pastiglie che prendevo senza protezione allo stomaco. Presa la protezione e passato il dolore. Ehi, sì, perché l'aspirina può aggredisce un po' lo stomaco. Pensa che io l'aspirina la bevevo con la Coca-Cola, che già è acida, più l'aspirina aggredisce, non mi faceva niente, non mi faceva niente, non mi faceva bruciore. Ma, e vabbè, ma mai approfittarne, io per dire la peperonata io non la posso mangiare, perché mi sta sullo stomaco pure. Devo mangiare un po' presto, diciamo, verso le 9, le 8:30, perché poi se no non digerisco. E vabbè, la digestione diventa più lenta con l'andar degli anni e poi te ne accorgerai. Eia, va bene. Che poi lì c'era quella credenza popolare che l'aspirina con la Coca-Cola fa droga, tutte le abiture. Io l'ho presa più volte, l'aspirina con la Coca-Cola, non mi ha mai fatto niente. Né bruciore e né effetti di droghe. Ok, ribadisco, quelli per me, ci sentiamo domani. Buonanotte a tutti e buon lavoro per domani. Hai provato a sconvolgerci Caraga, ciao Marco, ci sentiamo avanti. Sì, ciao Marco, ci sentiamo domani. Stavo bene, con quelli ti buon tutto e alle prossime. Ah, per la cronaca, Antonè. Quando piove e quindi l'antenna si bagna, le stazionarie non aumentano, quindi vuol dire che è stata isolata bene. Meglio così, sono contento, pensavo che fosse aumentata la vetta. Sai come abbiamo fatto quella serata, quella sera, guarda, e da l'ho incominciata, lo sai, l'ho filmata io, quindi è avuto culo, dottor Uccello, guarda, io sono un sensitivo, quando ti ho detto tu vedrai che adesso ci devo giù, e dottore sono io, non ho preso tempo per niente. Se l'avessi fatto la prima sarei stato a posto, avevo finito minimo il mio alle 5 di 6 di sera. E poi Miggia, mi stava facendo venire l'ansia questo qui, perché gli ho detto falla giù, falla sulla terrazza, invece lui era sul gabbiotto ed era verso il bordo strada, un po' vicino verso, mi stava facendo venire l'ansia, ho detto scendi, e lui no, no, tranquillo, io sono tranquillo, ma io no. E io con Luca l'altro giorno dicevo esci da lì, perché c'è sopra dove c'è la gabbina, una parte della cabina rimane in discesa, proprio tutto obliqua, diciamo, e l'altra parte rimane quadrata. E Luca era vicino a provare, e verso giù, capito? Si cagini, mi sei fottito, scivoli, ci scendi giù. Cazzo, lui era tranquillo, voi non so, vabbè, ti viene la lascia perché temi, tu hai paura anche per gli altri. Guarda, quella è la sua, uguale identica, perché c'è un pezzo quadrato, la discesa, poi un altro pezzo di quadrato, e poi c'è la fine del tetto. Ho fatto così, ti ricordi di YouTube, o Marco? Quando ho visto la scala, c'è la presenza a usare la scala, sai quando ti metti a piedi, scendi a piedi, sai quello con i piedi, così ho fatto. Meno male che c'eri tu, perché io ho paura della stezze. Ciu-ciu? No, no, io quando salgo sulla scala è già troppo. Quindi non avrei potuto fare quello che hai fatto tu. Mi viene proprio l'acrofobia, la FIFA, in poche parole. Non sono tanto vertigini quanto FIFA delle altezze. Vabbè, quello non è preoccupante. Il discorso è un altro. Pregate. E cioè, Antone? Che pratica, quando sei su è un conto, se sei in piano va bene, non c'è poco da temere, ci vuole poco a pensare un'antenna, cioè ti imparo io, ti porto io con me, ti faccio pensare un po' di un'antenna, in modo che ti abitui alle altezze, è inutile che puoi stare così, che c'hai paura, l'ansia te devi togliere, l'ansia se devi vincere con la paura. Capito? Eppure lo sai che c'è stato un periodo in cui andavo con Pippo, Super Pippo del baracchino, andavo sui tetti di tegole ad aiutarlo a piazzare antenne, palazzi altimi, e guardavo giù dal bordo del tetto, guardavo giù e non avevo paura. Non so perché, è stato un periodo che avevo meno paura, invece adesso un pochino mi è ritornata. E vabbè, è successo anche a me quello, non preoccuparti, perché io ho avuto gli stessi problemi. Io ho avuto un incidente, mi è sceso un tubo in testa, e quando sono arrivato sopra il tetto non riuscivo neanche a tenere la sala, addirittura fregata, e quindi devi abituarti di nuovo, devi vincere la paura. Se tu vinci la paura, sei tranquillo. Se un Dio come prima, capito, non preoccupate per quello. Va bene, da. Oh, raga, io vado veramente adesso, non riprendo, vi saluto di nuovo e avanti Gianni. Yeah, ciao, buonanotte. Ali, io, guarda, tu non sai la fatica che faccio a salire su quella gabbina. C'è la scala, tranquillo, tutto quanto. Faccio fatica a salire, ho paura che si rompa la scala, che si sposti mentre stai salendo. Come di paranoia, me. Aspetta un attimino. Oh, ci siete? Ma ne sono andato, avete perso la lingua? Vabbè, invece mi metto, aspetta un attimo, deve essere successo qualcosa. La scopposta gli ha bussato. Cappa. E tu, non hai trovato da mangiare? Sì, è in preparazione. Tu stai cucinando? Naturalmente no. Kappa. E tu sacrifichi però di cena a quest'ora, fatti il pasto. No, ma lo fa lei, anche lei deve cenarmi. Noi ceniamo certe volte, anzi quasi sempre, dopo il primo film, quindi verso le 11. È tardi. Ma beati voi, digerite così. Ma perché si parla sempre che la sera è meglio cenare presto, perché quella digestione è lunga e ci mette un po' a digerire. Vabbè, se non avete problemi di digestione è meglio così. Veia, poi noi ci alziamo un po' più tardi, usciamo tardi e torniamo altrettanto tardi. E mangiamo anche tardi, certe volte, certi giorni mangiamo alle 5 di pomeriggio, prendiamo alle 5 di pomeriggio. Gappa, come si fa? Siete proprio sballati come orari. No, ma non sempre già. Comunque noi siamo abbastanza liberi, cioè noi non abbiamo orario. Ci sono certi che, per esempio, l'una devono mangiare, se no muoiono. Noi invece mangiamo quando abbiamo fame, se abbiamo fame mangiamo alle 2, se no alle 3, se no alle 4. Capito? Non abbiamo orari fissi, per fortuna non siamo abitudinari. No, noi mangiamo alle 2. Alle 2 perché io rientro alle 2 meno 10, mi aspettano a mangiare e mangiamo tutti insieme. Ho capito, va bene, da. Io mi vado in cucina adesso. Oh, Antonello non rientra, Antonello. E io ho la cagarella. Ma sciolta è. Non so, ma ti aspetta un attimo, ma sembrava preoccupato, dice, aspetta un attimo. Questa è la cagarella, Antonello, parli parlando. Ti prende a dolore a cagare, davvero, No, veramente io, Marco, vabbè, io mi sono, non Marco, non ho bevuto niente l'altra notte, sono voluto una bella che era ghiacciata, poi lui si è bevuto succo di frutta, sono entrato a casa, c'è l'acqua, avevo fame, la verità, avevo la fame, mi sono messo la pasta asciutta a calda, poi mi sono bevuto un paio di, due, tre, altre torate e mi sono bevuto, e dopo mezz'ora ho vomitato perché mi ha toccato lo stomaco con tanti calabria che c'era la cena, capito? Però in realtà mi sono pigliato le cose, sono andato bene, la verità. Sembra così, ma la roba fredda bisogna stare attenti, se la riscaldare un po' in bocca prima di berla, perché la roba ghiacciata qui nei circoli la fanno cancarando, la fanno con quei frigoriferi, la mettono con quei frigoriferi dei gelati, però non è di più, capito? Quindi la gancareggia. La mezza ha avuto due peroni, e che mi ricordo, non ho sbronzo la verità, sono piatti due peroni. Ma Marco ci ha bevuto un mezzo bicchiere di birra e poi ha fatto bere un succo di frutta, sono stato a casa, ero tranquillo, dopo che mi ha detto ah c'ho fame, ho detto Simone, mi sono mangiato una la patata calda, la verità, con due lattine e me l'ha crepato, infatti mi ha fatto un blocco di stomaco, poi due lattine piano piano sbloccato, capito? Cioè piano piano, dopo non ho sbloccato, ho vomitato e mi sono sbloccato, però succede quando piglia una palla ghiacciata, rimane lì nello stomaco, capito? Poi mangi roba calda e ti crepa. Vabbè, lo sbatto di temperatura fa male. Avanti, Marcolino Condor. Ah, sei andato anche per l'ondate, sei andato. Ehi, comunque Antone, io bicchieri di birra ne ho bevuti alla fine due. Due bicchieri di birra, mi pare. E poi un succo di frutta. Ne hai bevuto uno solo, ne hai bevuto un succo di frutta perché ti sta facendo male la birra, mi hai detto. Ho detto, prima il succo di frutta, lo sto pagando io. La sattava, gli ha dato i soldi, gli ha dato 10 euro, mi ha dato 5 euro di quelli nuovi, mi sono dato 5 euro proprio io, 5 euro più che trovate a te, se ti ricordi bene. E per quello che... però, cioè, stavo bene, non è che non stavo bene. Tanto la cosa è, e quando sono andato a casa ho cedato, avevo fame la verità, mi sono fatto la pasta calda, diciamo la pasta calda, no? E evidentemente c'ho lo stomaco bloccato e non sono riuscito a digerirla, e che altro. Ma vabbè, ho capito. Infatti è tardato un po' ad entrare all'apparato. Mi avevi detto 5 minuti, invece ci hai messo un quarto d'ora, mi pare. Ma come hai fatto? Mi hai detto un controllo, sono riuscito bene, mi ho fatto le prove, non c'era problema. Poi invece è successo che si è bloccato lo stomaco, sono tornato direttamente in lavandi blu e ho fatto quello che dovevo fare, cazzo. E vabbè, succede a volte, è la verità. Non è sempre, ma succede. Io mi saluto là. Dove sono? Allora, sono le 11. Le 11 mi pare passate, da. Oh, vi saluto anch'io, dai. QRT definitivo. Buonanotte a tutti. Ciao, ciao, buonanotte, buonanotte, adesso buonanotte a tutti. Ciao Gianni, allora ci sentiamo là. Ciao Marco, ci sentiamo domani al limite. Già sono qua a casa, non c'è problema. Chiama, se chiamate su 10, su 14, quello che vuoi, siamo qua.